Il terzo anello, ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Poi i viaggi. Federico conobbe la malinconia delle navi, i freddi risvegli sotto la tenda, la vertigine dei paesaggi e delle rovine, l'amarezza delle amicizie troncate. Fu di ritorno, frequentò il mondo, ebbe altri amori. Ma il ricordo invincibile del primo glieli faceva sembrare insipidi. E poi la violenza del desiderio, la parte alta e viva dei sensi, erano perdute. Anche le sue ambizioni intellettuali s'erano appassite. Passarono gli anni, l'inattività della mente, l'inerzia del cuore, erano tanti i pesi che doveva portare. Verso la fine di marzo del 1867, al calar della sera, mentre se ne stava solo davanti al suo scrittoio, una donna era entrata. «Madame Arnoux! Federico!» Lo prese per le mani, lo portò con dolcezza verso la finestra e guardandolo ripeteva «Lui! Proprio lui!» Nella penombra del crepuscolo, attraverso la veletta nera che le copriva il volto, Federico vedeva soltanto i suoi occhi. Dopo aver posato sul piano del camino un piccolo portafogli di velluto granata, la signora s'era seduta e tutti e due stavano lì a sorridersi e non riuscivano a dirsi una parola. Lui alla fine le chiese di lei, di suo marito. Stavano in fondo alla Bretagna adesso per vivere con la minor spesa possibile e riuscire a pagare i loro debiti. Arnoux era quasi sempre malato, era un vecchio ormai. La figlia s'era sposata e abitava a Bordeaux, il figlio era militare. A un tratto la signora aveva alzato il viso. «Ma adesso sono qui, la rivedo, sono felice». Federico non si trattenne dal dirle che alla notizia del disastro era corso da loro. «Lo sapevo, e come?» L'aveva visto nel cortile, s'era nascosta. «Perché?» E allora, con la voce che le tremava, con lunghe pause di silenzio fra le parole, «Avevo paura. Avevo paura di lei, di me». A questa rivelazione Federico sentì come un brivido voluttuoso. Il cuore gli batteva forte. «Le chiedo scusa di non essere venuta prima», riprese la signora. E indicando il piccolo portafogli granata ornato di larghe foglie d'oro, «l'ho ricamato apposta per lei». Dentro ci sono quei denari che i terreni di Belleville dovevano garantire. Federico, ringraziandola del dono, la rimproverava ad essersi disturbata. «No, no, non è per questo che sono venuta. Io tenevo a questa visita, poi me ne tornerò via, laggiù». Gli disse dove abitava. Era una casa bassa, un solo piano, con un giardino pieno di altissimi cespugli e un doppio viale di castagni che raggiungeva la sommità della collina. Là, dall'alto, si vedeva il mare. «È là che vado a sedermi su una panchina. L'ho chiamata la panchina di Federico». S'era messa a guardare i mobili, gli oggetti, i quadri, quasi con avidità, come per portarseli via nella memoria. Mezzo nascosto da una tenda c'era anche il ritratto della marescialla. I suoi ori e i suoi bianchi, che facevano spicco nel buio, attirarono la sua attenzione. «Quella donna, direi che la conosco». «Impossibile», disse Federico. «È un antico dipinto italiano». Lei gli confessò allora che avrebbe voluto fare un giro per le strade con lui, al suo braccio, e così uscirono. Thank you. Le luci delle vetrine rischiaravano a tratti il suo profilo pallido, poi l'ombra tornava a confonderlo. E andarono in mezzo alle vetture, alla folla, ai rumori, mai dimentichi di se stessi, dimentichi d'ogni altra cosa, come se stessero camminando insieme per la campagna su un letto di foglie morte. Si ripetevano i racconti dei giorni andati, i pranzi al tempo dell'art industriel, le manie di Arnoux, il suo modo di tirarsi le punte del colletto o di spalmarsi i baffi di cosmetico e altre cose ancora, più intime, più profonde. Com'era rimasto affascinato la prima volta che l'aveva sentita cantare. Com'era bella il giorno della sua festa a Saint-Cloud. Federico ricordava il piccolo giardino di Auteuil, le serate a teatro, l'incontro sul boulevard, le sue domestiche di un tempo, la governante negra. Lei si meravigliava di tanta memoria, tuttavia gli disse: «Certe volte le sue parole mi arrivano come un'eco lontana, come il suono di una campana portato dal vento. E quando leggo nei libri qualche storia d'amore, mi sembra che lei sia lì, vicino a me. E io per lei ho provato tutte le cose che la gente ritiene esagerate. Riesco anche a capire che a Werther non dispiacessero le tartine di Carlotta. Mio povero caro amico!» Diede un sospiro e dopo un lungo silenzio: «Comunque potremmo dire d'esserci amati tanto, senza mai averci però. Forse è stato meglio. Oh no, questo no. Pensi come saremmo stati felici. Lo credo, sì, con un amore come il suo. Per durare al di qua di una separazione così lunga, doveva essere ben forte.» Federico allora le chiese come avesse fatto ad accorgersene. «È stato quella sera che mi ha baciato il polso, fra la manica e il guanto. Mi son detta: dunque mi ama, mi ama. Ma avevo paura di saperlo con troppa certezza. E il suo riserbo era così incantevole, mi rendeva felice, come un omaggio continuo e involontario.» Federico non rimpiangeva più niente. Le sue sofferenze di un tempo erano ripagate. Quando rientrarono a casa, Madame Arnoux si tolse il cappello. La lampada, posata sulla console, illuminò i suoi capelli bianchi. Federico ne sentì come un colpo in pieno petto. Per nascondere la sua delusione, s'era messo ai suoi piedi, le prese le mani e le disse delle cose tenere. «Mi sembrava che la sua persona, che ogni suo minimo gesto fossero la cosa più importante del mondo. Il mio cuore era polvere che si sollevava dietro i suoi passi. Lei per me era come la luna in una notte d'estate, una notte tutta piena di profumi, dolcissime ombre, candori, orizzonti infiniti, e il suo nome, che ripetevo a me stesso, che cercavo di baciare sulle mie labbra, conteneva tutte le delizie della carne e dell'anima. Non vedevo niente, non immaginavo niente al di là di questo. Lei era la signora che era, con i suoi due bambini, dolce, seria, bella da lasciar senza fiato e così buona. Era un'immagine che cancellava tutte le altre. Come avrei potuto pensarci se la musica della sua voce, lo splendore dei suoi occhi erano sempre nel fondo del mio cuore? Rapita, lei accettava d'essere adorata come la donna che non era più, e Federico, stordito dalle sue stesse parole, cominciava a provare le cose che le andava dicendo. Madame Arnoux si chinò contro Luce verso di lui, sentì sulla fronte la carezza del suo respiro, avvertiva, attutito dalle vesti, il contatto impreciso del suo corpo. Le loro mani si strinsero, la punta del suo stivaletto spuntava appena dall'orlo della gonna. E Federico, sentendosi quasi mancare, le disse: «Il suo piede, vedere il suo piede mi turba.» Con un moto di pudore lei s'era alzata e poi, immobile, parlando con una strana voce da sonnambula: «Lei, Federico, alla mia età, nessuna, nessuna è stata amata come me. A che vale la giovinezza? Non me ne importa niente. Io le disprezzo, capisci? Le disprezzo tutte le donne che vengono in questa stanza.» «Non ne viene nessuna», rispose compiacente Federico. Il viso di lei s'era illuminato e volle sapere se stesse per sposarsi. No, glielo giurava. «È proprio vero. E perché?» «Per causa sua», disse Federico stringendola fra le braccia. Lei non si ritraeva. La sua schiena si inarcava, La bocca era socchiusa, gli occhi girati verso l'alto, ma a un tratto, disperatamente, lo respinse. E come lui la supplicava di dirgli qualcosa, lei, chinando la testa, «Volevo farti felice». Federico ebbe il pensiero che fosse venuta per offrirsi e fu ripreso da un desiderio furioso, più forte, più aspro che mai. Ma insieme sentiva qualcosa di inesprimibile, una sorta di repulsione, il terrore quasi di un incesto. O fu un altro timore a trattenerlo, quello dopo di provarne disgusto. E poi che momento difficile, imbarazzante sarebbe stato. Un po' per prudenza, un po' per non degradare il suo ideale, si trasse bruscamente da parte e si mise ad arrotolarsi una sigaretta. Lei lo guardava con stupefazione. Quanta delicatezza! Nessun altro uomo al mondo! Suonarono le 11. Così tardi, ancora un quarto d'ora, poi me ne andrò. Era tornata a sedersi, ma aveva gli occhi fissi sulla pendola. Federico andava avanti e indietro, fumando. Nessuno dei due trovava più niente da dire. Quando ci si separa, c'è un momento in cui la persona amata è già lontana da noi. La lancetta dell'orologio aveva superato i 25 minuti. Lentamente, la signora raccolse per i nastri il suo cappello. Mio amico caro, addio. Non ci rivedremo mai più. È stata la mia ultima impresa di donna. Ma con l'anima le sarò sempre vicina. Il cielo la benedica. E gli posò come una madre le labbra sulla fronte. Ma parve ancora che stesse cercando qualcosa. Gli chiese un paio di forbici. Si sfilò il pettinino e i suoi capelli bianchi le si sciolsero tutti sulle spalle. Con un colpo di forbici, brutalmente, ne recise una ciocca alla radice. Serbali. Addio. Corse fuori. Federico si fece alla finestra. Dal marciapiede, Madame Arnoux fece segno un fiacre da accostare. Vi salì e la vettura scomparve. Nient'altro. Verso l'inizio dell'inverno, riconciliati ancora una volta, quasi fatalmente, da una natura che li spingeva sempre a ritrovarsi e a volersi bene, Federico e Delorier stavano chiacchierando davanti al fuoco. L'uno raccontò brevemente la sua rottura con la signora d'Ambreuse, risposatasi poi con un inglese. L'altro, tralasciando di spiegare come fosse arrivato al matrimonio con la signorina Rock, lo informò che la moglie, un bel giorno, era scappata con un cantante. Per scrollarsi di dosso il ridicolo, l'avvocato aveva finito col compromettere il suo posto in prefettura esagerando in zelo governativo. L'avevano destituito. Era stato successivamente capo in un'impresa di colonizzazione in Algeria, segretario di un sultano, gerente di un giornale, procacciatore di pubblicità, per finire impiegato al contenzioso in una ditta industriale. Quanto a Federico, aveva fatto fuori i 2/3 del suo patrimonio e viveva da piccolo borghese. Si informarono poi reciprocamente dei loro vecchi amici. Martinon era diventato senatore Il Sonet aveva un'ottima posizione dalla quale praticamente controllava tutti i teatri e tutta la stampa. Sisi, sprofondato nella religione e padre di 8 figli, abitava il castello dei suoi avi. Pellerin, dopo essere stato seguace di Fourier e aver manifestato passeggiare inclinazioni per l'omeopatia, lo spiritismo, l'arte gotica e la pittura umanitaria, s'era messo a fare il fotografo ed era effigiato su tutti i muri di Parigi con una giacchetta nera e un gran testone sopra un corpo minuscolo. «E il tuo carissimo Senecal?» domandò Federico. «E chi ne sa più niente? Scomparso! E la tua grande passione, Madame Arnoux?» «Credo che sia a Roma con suo figlio, tenente dei cacciatori. E il marito? È morto l'anno scorso.» «Ma guarda», disse l'avvocato. Poi, battendosi la fronte, «a proposito, sai chi ho incontrato l'altro giorno in un negozio? Quella brava marescialla. Aveva per mano un bambino, uno che ha adottato. È vedova di un certo Audry ed è molto grossa, addirittura enorme. Che decadenza! Pensare che aveva una vita così sottile.» Delorier non nascose a Federico di aver approfittato della disperazione di lei per assicurarsene di persona. «Eri stato tu a darmi il permesso, ricordi?» La confessione era destinata a compensare il silenzio sul tentativo con Madame Arnoux, tentativo che Federico, d'altra parte, gli avrebbe perdonato dal momento che non era riuscito. Nascondendo una certa irritazione, si sforzò di riderci sopra e il ricordo della marescialla gli fece venire in mente la Vatnaz. Delorier non l'aveva mai vista, come tanti altri del resto che frequentavano gli Arnoux. Si ricordava benissimo invece di Regimbar. «È ancora vivo?» «A malapena. Tutte le sere, regolarmente, si trascina da Rue de Grammont a Rue Montmartre, passando davanti ai caffè. Magro, debole, piegato in due. Un vero fantasma.» «Mi sembra che ti sei molto calmato con la politica, eh?» «Effetto dell'età», disse l'avvocato. E si misero a fare un sommario della loro vita. Tutti e due avevano fatto fiasco. Quello che aveva sognato l'amore e quello che aveva sognato il potere. E le ragioni? Quali erano state? «Forse», disse Federico, «la mancanza di una linea precisa. Questo può valere per te. Io, al contrario, ho peccato proprio per eccessiva linearità, per non aver tenuto conto delle 1000 cose secondarie che sono poi le più importanti di tutte. Io ho avuto troppa logica, tu troppo sentimento.» Poi si sfogarono a dar la colpa al caso, alle circostanze, all'epoca in cui erano nati. «Non pensavamo certo ad arrivare a questo», disse Federico, «quando tu progettavi una storia critica della filosofia e io un grande romanzo medievale su Nogent.» E tutti i momenti, esumando la loro giovinezza, si chiedevano l'un l'altro: «Ti ricordi?» Rivedevano il cortile del collegio, la cappella, il parlatorio, la sala d'armi a pian terreno e certe figure di istitutori ed allievi. E poi quella tremenda bevuta durante una gita, i primi sigari, la distribuzione dei premi, l'allegria delle vacanze. Era stato nelle vacanze del 37 che erano stati dalla Turca. La donna, che chiamavano così, aveva per suo vero nome quello di Zoraide Turk e molti credevano che fosse una musulmana, una turca, il che aumentava il fascino poetico della sua casa, posta sulla riva del fiume, dietro le mura dei bastioni. Anche in piena estate c'era sempre ombra intorno all'edificio, reso inconfondibile dal vaso di pesci rossi posato sul davanzale accanto a una piantina odorosa. Le signorine, tutte in camiciola bianca, le gote imbellettate e certi lunghi orecchini, battevano contro i vetri quando si passava davanti e alla sera, ferme sulla soglia, canterellavano con le loro voci dolci e rauche. Quel luogo di perdizione era fantasticamente noto in tutto il circondario. Per indicarlo si usavano perifrasi: «Il posto che sapete, una certa via, dall'altra parte dei ponti.» Le mogli dei fattori nei dintorni tremavano per i loro mariti e le borghesi stavano in pena per le loro domestiche dal giorno che la cuoca del viceprefetto era stata sorpresa là dentro. Ed era, naturalmente, la segreta ossessione di tutti gli adolescenti. Una domenica, mentre tutti erano ai vespri, Federico e Delorier, dopo essersi fatti radere e arricciare i capelli, avevano raccolto dei fiori nel giardino della signora Moreau Erano usciti dalla parte dei campi e, fatto un lungo giro attraverso i vigneti, erano tornati per la pescheria e s'erano infilati dalla turca, sempre coi loro mazzi di fiori in mano. Federico aveva offerto il suo come un pretendente a una fidanzata, ma un po' per il caldo che faceva là dentro, un po' per lo sgomento dell'ignoto, per una specie di rimorso, forse anche per il piacere di vedere con una sola occhiata tante donne tutte a sua disposizione, Federico si emozionò a tal punto che si fece pallidissimo e restava lì senza muoversi, senza parlare. Le ragazze, rallegrate dal suo imbarazzo, si erano messe a ridere. Credendosi beffato, Federico era scappato via e, dato che era lui ad avere i soldi, Delorier era stato costretto a seguirlo. Li avevano visti uscire e ne era nata una storia di cui si parlava ancora dopo 3 anni. Se la raccontarono da capo con tutti i particolari, ciascuno completava i ricordi dell'altro. Quando ebbero finito, Federico disse: «Non abbiamo mai avuto niente di meglio dopo». «Già, forse hai proprio ragione. Non abbiamo avuto niente di meglio», disse Delorier. Buongiorno, sono Valeria Parrella. Alla fine della lettura che abbiamo ascoltato, l'educazione sentimentale ci è sembrata essere come il lungo resoconto di una vita intera. La cosa particolare è però che è una storia in cui i personaggi, per così dire, non prendono una parte attiva all'azione. C'è una frase all'inizio del libro che sembra poter essere applicata a tutto il romanzo, quando dice: «E la noia vaga e diffusa sembrava illanguidire la marcia del battello e rendere ancor più scialbo l'aspetto dei viaggiatori». Ecco, se il battello è il romanzo e i viaggiatori sono i suoi personaggi, la frase può essere applicata al romanzo. Eppure la cosa particolare di Flaubert è che tutto attorno si muove il mondo. La società parigina, i boulevard continuamente in movimento, e soprattutto si muove anche la grande storia, cioè tutta la parte finale in cui viene decretato lo stato d'assedio e la camera viene sciolta, e continuiamo a incontrare insieme a Frédéric le guardie per strada, ci sentiamo anche quasi piantonati, controllati a vista, incontriamo le barricate, incontriamo gli atelier, diciamo i rappresentanti degli atelier che si sono scocciati dai borghesi. E quindi, diciamo, esistono tutti e due i livelli. Il livello dei protagonisti che restano isolati, a cui la cosa non importa, non interessa, e il livello invece del mondo che è in continua agitazione. Una delle critiche positive che viene mossa dai contemporanei all'educazione sentimentale è che si dice che quello che sino a Flaubert era azione diventa impressione. E questo che vuol dire? Che le cose che Flaubert mette in campo hanno tanta vita quanto gli uomini, perché è il ragionamento degli uomini, è il ragionamento dello scrittore, è la parola che a giochi fatti attribuisce cause esterne a ogni fenomeno. Allora, così anche nelle descrizioni, per esempio, dei paesaggi, no? La collina che seguiva a destra il corso della Senna a poco s'appiattì, non è la collina che s'appiattisce, è la visione del protagonista che le vede, le dà un movimento, le regala un movimento. Questa è una cosa, è un espediente che noi nei testi contemporanei, nei romanzi del Novecento, incontriamo continuamente. Eppure è una cosa che fino a prima di Flaubert non esisteva. Marcel Proust dice dell'educazione sentimentale, dice: a mio parere la cosa più bella dell'educazione sentimentale non è una frase, bensì uno spazio bianco. E per spazio bianco intende proprio un'interruzione forte. Lui si riferisce, quando dice questa cosa, al momento in cui alla fine del romanzo lui vede un tafferuglio tra una guardia e un uomo di spalle, non lo riconosce e si accorge che è Senecal che sta morendo. Dopodiché appunto c'è questo spazio bianco e Flaubert riprende dicendo: viaggio molto, attraverso paesi, conobbe la noia di questo, la noia di quell'altro, ritornò e via dicendo. Qui, da qui in poi, il romanzo ha un'accelerazione. Perché Proust dice che lo spazio bianco è la cosa più bella dell'educazione sentimentale? Perché si riferisce all'uso del tempo. Cioè lì Flaubert riesce a creare una spaccatura tra un'azione che è nel presente e un'azione successiva che è ancora nel presente, che lui racconta in un presente diverso, un presente emotivo. Lui non ha bisogno di raccontare ciò che è accaduto da A a B al passato e poi passare al futuro, racconta tutto al presente inframmezzando con questo spazio bianco. E anche questo è un espediente che poi nel Novecento verrà usato spessissimo, anche in componimenti più brevi, anche nei racconti, ma lì in Flaubert è la prima volta che lo troviamo. E questo, in un certo senso, ha anche una sua motivazione interna, cioè questo spazio bianco, questo uso del tempo così strano, così particolare, è quasi necessario, perché noi sappiamo che Frédéric è un uomo che magari si abbandona sul divano a meditazioni caotiche, progetta opere, si proietta verso il futuro, e alla fine che fa? La soluzione di tutto qual è? È che per sfuggire a se stesso si alza ed esce. Ecco, Frédéric è questo eroe che sfugge a se stesso. E anche in tutta la storia con Madame Arnaud, che poi si conclude in una maniera così rarefatta, così quasi affrettata, alla fine rincontrandosi loro dopo tanto tempo, lei con i capelli bianchi, che simbolicamente gli taglia una ciocca di capelli bianchi e gliela restituisce, anche quella è tutta una storia in cui lui a un certo punto simbolicamente si è alzato ed è uscito dalla sua vita. Loro se lo dicono, dice: noi ci siamo amati tanto, sì, però non ci siamo mai avuti, non ci siamo mai posseduti. E la donna saggiamente dice: forse è meglio. Lui invece non abbandona, diciamo, l'ideale romantico che lo attraversa tutto. E anche la fine forse è una fine sorprendente, perché appunto dopo che noi abbiamo visto una decina, una quindicina di anni svolgersi minuto per minuto, e poi abbiamo visto il racconto rapidissimo in 20 pagine finali di tutto quello che è successo fino, diciamo, alla tarda età, all'età della maturità, una fine così non ce l'aspettavamo. Quando lui e l'amico parlano e si rendono conto che la cosa migliore della loro vita è stata addirittura quella di scappare, poco più che adolescenti, di fronte a un lupanare, di fronte a un primo incontro con delle prostitute. Ricordano, diciamo, questa prima esperienza, e quindi forse tutta la cosa più saggia, più bella di Frédéric è qualcosa che è accaduto prima dell'educazione sentimentale. Anna Bonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, traduzione di Giovanni Raboni per Edizioni Garzanti, postfazione di Valeria Parrella, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.